dice, fai il conto, quanto costa la confezione in capsule e dividila per ogni caffè che fai. Cosa si dizende? Stai sbagliando, sai. Guarda, se la prendi via Le Dante, che c'è una... c'è un coso, c'è, come si chiama, un centro dove vendono tutte quante queste cose. Cosa vuoi che ti costi? 22 euro, un pacco da 50. No, sto sbagliando, da 100. 22 euro un pacco da 100, cosa vuoi che ti costi? Ma proprio capsule, non cialde, capsule. Nel modo mio sto parlando. Ehi, saranno capsule, sono quelle di plastica, tipo cartucce, mi. Sì. Tu prova a comprare quelle a modo mio e poi mi torni la risposta. Poi se non vuoi qualità oro, ci sono altri caffè che costano 20 euro, così la 100. Sono un sacchi da 50, però 100 costano così, 50 e 50, dividiamoli, quanto ti costano. Mi pare che l'ultima volta avevo pagato 22 euro, 100 capsule, già convengono, già, se va al bar ti costa un euro e 10 caffè. Mi pare strano che sia così basso il prezzo, perché se tu vai nei normali market, perché sai, 100 capsule vogliono anche consumate, io andrei nei market a prendere il caffè, solo quello che mi serve, cioè non queste forniture da 50 a 100, vabbè, poi convengono, ma puoi risorbire allo stesso caffè finché non lo consumi tutto. Mi è sembrato di sentire un break, avanti il break, che tolgo lo squelch qua, avanti il break. Allora, sei un Santiago 7 con picchia 8, per la modulazione, fammelo orecchiare, mi avvicino all'altoparlante, vai. Puoi frequentarsi Gianfra, sei sul 9, sei. Qua, aspetta, con questo mi viene male, non mi ricordo il menu per spostarmi, però sembra, sì, c'è un soffio come se fossi fuori. Antonio se ne accorge di più. Antonio? Eh sì, sei fuori frequenza, ti sento bene sul 9 ma non sul 10 io. Quindi il 9 più 20, questo è anche abbastanza secco, 9 più 20. Il microfono è l'originale, va bene, sì, se no lo regolo in aumento. Dunque, il microfono originale, ma il trimmer è in posizione originale adesso? No, sì, sono spostato, confermo. Dovrebbe essere un po' meno dal normale. Comunque, com'è? Forte, bassa, normale? No, a livello di modulazione, diciamo, sembrerebbe normale. Forse devi metterlo tutto, girarlo tutto. Tutto, per quanto quelli siano talmente piccoli che non capisci qual è, manco il fondo scala, certi non lo senti proprio, si può aumentare ancora di più secondo me. Come chiarezza è chiara, niente da dire. Sì, guarda, lo tocco se non esplode, in realtà, usando l'altro micro, sto girando e credo da aver girato, è successo qualcosa, no? Oddio, non mi accorgo più di tanto io e Gianfra. Non saprei, poi ho toccato il volume di mio e quindi ho annullato la... Vabbè, comunque qua è fondo scala, vedo, quindi non c'è niente da fare. Non c'è neanche picco, strano. Sì, adesso lo devo risaffettare per rimetterlo in frequenza. Ma sai cos'è Gianfra? Che tu gli hai dato watt, gli hai dato watt interrogativo, perché dandogli watt si mangia la radio, se invece tu tieni 4 watt e gli aumenti il trimmer della M, allora sì che avrà una modulazione più spinta. Comunque è capibilissima, chiara, non... c'è un po' di toni bassi, sì, però niente da dire. È piccolissimo, è 2 pacchetti di sigarette. Ok, ma adesso lo faccio. Marco, sei tu? 0,70. discretamente, nonostante pure frequenza, quindi si può immaginare. Va bene, passo di nuovo a fare la frattura, ci metto il frequenzimetro, lo faccio prima. Claudio, come lo senti tu? 0,70 benissimo, la 0,75 è fuori frequenza. Che questa è un'impostazione di un altro paese, è tutto lì il problema, adesso devo rientrare nel menu e metterla all'impostazione europea. È abbastanza semplice la cosa. Sì, praticamente sei in banda polacca, PL, banda polacca, e loro hanno lo 0 finale anziché il 5. Adesso ritorniamo normale, dai, c'è il bombolo a 0,75. Ok, tanto io passo a lavorarci su, tanto queste polacche sono anche da noi. Eia, Antonio c'è ancora? Antonio? Beh, Antonio si è buriato di aspettare e forse ha chiuso. Sono qui, sono qui. Si è fatto passaggio alla Falcone, per forza. Passaggi falconiani. Eia, comunque hai visto Antonio, io credo che fosse con un'antenna piccola Gianfranco, invece lo sentiva, più lui se n'è accorto che era più spostato. Sì, quello, siccome sono europei quegli apparecchietti, hanno la banda polacca che ha lo zero finale, no? I polacchi sono particolari, no? Come gli inglesi hanno quei canali diversi, anche i polacchi hanno la canalizzazione strana. E non ti dico i giapponesi, Claudio. Sto parlando da solo. Vanno in Lucabo 4, va. Ciao, sono qua, sono salito col cane, mi stavo cambiando, ciao anche Antonio. Però niente, dai. Parlate voi che io già sono in ascolto. Che sto memorizzando una radio. Niente, dai, ok. Eia Claudio, la modulazione è tutto a posto, sì qua. Sì, nessun problema, tutto. E quanto sei forte qua, minchia. Cosa Anton? Ma è forte qua, sia di segnale che di radio. Eia, va bene, va bene. Eia, beh, questo è il 440, quindi si sa che se così da... I watt sono 20. Da 20 a 80 va, figurati. Non credo via. Qua mi sento anche nel canale vicino, si sento. Cosa che la Terolte non era così. Qua ti sento forte, ma forte davvero però. Altro, questa schirreggia, questa già schirreggia. Ma anche l'altra già va bene. Questa però è mittica, già va bene. Sì, Marco, tutto a posto, nessun problema. E poi ieri, sai cos'è Claudio, che avevo necessità di fare delle regolazioni, gli ho aumentato appena il trimmer perché era troppo chiuso e quindi poi vabbè, tutta una serata di prove era ieri, da, ho sentito un po', sempre prove, da. Però era una regolazione che dovevo fare assolutamente e adesso è pronto all'uso. Gli abbia sentito prova qui, prova là, io ho messo la TPMR, no? Marco, non sto preso a pressione, io ti voglio fare prova, che ti prova, controlli, controcontrolli, non me la fotte un po'. Ok, dai, nessun problema, comunque, quando le prove si vanno a fare, fatele, io già sto entrando poco, quindi già mi basta così. Andiamo un attimo, sta radio. Aspetta un attimo, Anto. Eccola qua. Ok, va bene, sto facendo una regolazione, dai. Ovviamente qua accende tutti i LED, ma nemmeno a dirtelo, è ovvio, no? Beh, vabbè, è chiaro che accende tutti i LED, però c'è qualcosa che non mi convince. Ma troppo amplificata, sento un bella TV. Sì, un beh, ma ti stai autoascoltando, perché c'è una specie di sibilo, come se ascoltandoti ci fosse un rientro leggero, dai. E questo è portante qui avanti, c'è un portante sotto di te, Marco. È una portante, e arrivava anche abbastanza. No, ma Marco non lo copre qua, ma 9.30, Marco, la portante è 9.20. una cosa, a Marco, li vado in Udda, li vado a Marco, non lo copre manco per niente. Sono al minimo, ma forse è Gianfranco che sta tarando quell'apparecchietto. Gianfranco, sei tu? No, negativo. Sì, sono al 4 in teoria dovrebbe essere, io non ho il watt, metto qua. Fino a 10 lo posso mettere qua, ma non scalda troppo, scaldano questi piccoli, è una cosa, questi SMD, cioè tutto calore, tutto calore, il 3009 non scalda così, anche a 4 watt. Beh, il sistema SMD è un troiaio, Marco, io avevo fatto una radio a riparare a un amico che è abbastanza tecnico, e mi ha detto non me l'ha riparata, mi ha detto non me ne dare più perché sono diventato pazzo, guarda, il sistema... È un sistema, guarda, allucinante. Cioè, roba piccola, mia. Guarda, te ne fa uscire gli occhi. Io, ieri, questi trimmer sono micro, io ieri ho faticato a capire l'orientamento del micro trimmer. Cioè, mi dovrei mettere, è presente quegli oculari da chirurgo che si mettono quando operano, no? Sembrano dei piccoli binocolini, no? Tenuti dalla montatura tipo occhiale. Sì, ma me l'avete, c'è cioè, valente ingrandimento, si guarda un casino per cambiare due stronzate, proprio un casino. Vabbè, purtroppo la radio oramai sono tutte così. Vai Anto. Sì, scusa, mi stavo parlando con la mia 25. Fai, perdonami. Non c'è problema. Ok, va bene, vediamo Gianfranco si è attratto questa radio, Gianfranco. Aspetta che giro, ditemi se compaio, K. Aumenta ancora. Allora era al contrario, cacchio. Anche al contrario me l'hanno fatto. Io infatti sono con l'attrezzo, sono con triple lenti. Adesso sì, perfetto. 075.00, la radio 5. A te non ti riconosco, qua c'hai questo innesco già da un po' che fa sta urlando. Infatti io sentivo qualcosa che non mi convinceva molto. Adesso non c'è più, vero? Adesso sembrerebbe di no, però c'è quel televisore che fa sorda. Non ci posso fare niente, se mi chiudo la porta c'ho caldo, quindi no, lascio così vedere la televisione. Sì, avevo forse toccando, facendo un po' di pulizia, ho toccato troppo il microfono, ce l'avevo a 2, deve andare a 1, ecco perché stava fischiando. Adesso va bene Marco. Sì, è quella specie di sibilo che dicevo prima, è come se avessi una cuffia di un altro apparato che riceve, si sente appena un sibilo, già, vabbè, l'hai spiegato tu meglio, adesso è a posto, dai. Ehi, sempre, si sa, queste radio quando sollevi troppo il mic o innesca o va in distorsione, evidentemente stava innescando, era un innesco microfonico. Niente di che, adesso va bene. Avanti, altro riprendi. Capo, già lo sentivo già, appena. Per forza ce l'avevo a 2, questo deve andare a 1. A 1 col processore inserito. Quindi è per quello che era troppo alto, mi dà. Va bene. Tarato quindi hai già fra a posto? Sì, dovrebbe essere. Ah, si vede il picco. Dovrebbe essere a posto, ma adesso devo regolare la parte del coso lì, della potenza. Vediamo un po', si sale. Sale ancora, ecco qua. Ok, dimmi se è cambiato qualcosa, se va sempre bene. Prova. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ottimo, adesso va bene. Il capo, qua sei forte, sei Gianfra. Sei oltre 9.25 radio 5, fortissimo. Magari da che te la stai modulando? Ah, guarda, sto modulando da prato comunale, praticamente, 127 bis, potenza è 4 watt, omologato. E niente, siccome l'hanno mandato con impostazione polacca, Porca miseria, sono un bagno di sudore che quegli occhiali lì che dicevi tu Claudio ammazzano i rommoli. Mamma mia, sono le cuffie, no? Dove ci sono quelle enormi, ce ne sono due per poter vedere. E questa affare quanto due pacchetti di sigarette ha costato. Oh, per quello che costa devo dire che hanno fatto un bel lavoro, In macchina è difficile da tenere perché come ti muovi a destra, a sinistra, in alto, in basso. No, va bene, già figurati. No, non ci sono problemi. Ottimo per la truppa. Non, va bene, sia come segnale che come di radio, quindi no, non ti preoccupare. Vai Marco, riprendi. Sì, poi il prezzo è vantaggioso perché quello è il clone del, ma confermi che è il 6500 HP, VNI HP Escort 6500, è il clone del CRT Millennium, mi pare si chiami così, il clone, dovrebbe essere uguale anche dentro, mentre le precedenti versioni erano un po' diverse, queste sono le ultime. Sì, confermo, è lui, 6500 HP 6500. Ed è identico, perfettamente identico in tutto a quello che hai detto lì al Millennium. Sono giocattolini, sono veramente piccoli. A guardarci dentro poi, certo se si guarda non è cosa da riparare, da aprire il finestrino e buttarlo dentro un cassonetto, perché non fa. Ci sono gli SMD ancora più piccoli degli SMD. Però vedi, quello almeno è un apparecchietto che lo compri, cioè anche senza toccarlo esce quasi bene, no? Parlo di modulazione. Mentre il Polmar ZX40 esce proprio brutto, brutto, brutto. Sembra fatto apposta per uscire male. Quando mai la Polmar vende queste porcherie? Un casotto, tra l'altro ci sono i trimmer capottati, cioè sono a rovescio, io stavo andando a aumentare in senso orario, invece stavo diminuendo, la massa ne è scenda. Riprendi Claudio. Stavo guardando la foto di questa cosa che mi ha mandato, ma sì, la conosco, ma me l'avevi già mandata. È bellina, niente di che, dai, comunque va bene. No, questo no, questo non posso avertela mandata, ce l'ho da due giorni, vabbè, poco più di due giorni. Ah, te l'hai presa nuova? Allora un'altra che me l'hai mandata, ne hai tante di queste radio così, questi baracchini, allora dei Caraibi li chiamo io. No, io stavo facendo le prove con un VU, va benissimo, ok, va bene, avanti a tu. Scappa, stavo dicendo, per la radio che c'ha così piccola e cose io lo sento benissimo qua a Gianfranco, capolo, funziona bene. Sì, ma Gianfranco non è molto distante da te, non tu, dai, linea di massima ce l'hai dietro le spalle, per farti capire, non è meccanica, però è abbastanza aperto per la tua zona, si arriva qua a 9.25 anche a me, quindi anche di più 9.30, un pochino, no, leggermente più basso di Marco, niente di che. Vai Marco lì. Veia, ma sei in ricezione su anche? No, per sapere se funzionava tutto qua. Sì, sempre acceso, ho tutto acceso lì. Non sente la voce. Funziona tutto, no, questo era una cosa comprata, provata e messa in scatola, ed è quindi da 2-3 mesi che non veniva usata, e vedo che funziona, dai. Funziona, segnale fondo scala, funziona. Io adesso domani se fa bella giornata come oggi mi dico un po' al tetto, perché sono salito stamattina, c'è un casino col vento, un grigliolato tutto d'ora. Metto un po' a posto, mi piazzo la XC50 solo esclusivamente per il PMR, perché adesso è sotto quella grande e quindi rimetto come era prima, quella la dedico solo al al PMR. Avanti Gianfra. Niente, stavo provando anche una cosa qua. Dimmi se mi senti a Mike Radio. Anzi no. Sì. 1, 2, 3, mi senti? Io non sento la voce. È un po' cupa. 5. Ma io mi ricordo che prima abitavi a Latte Dolce, Gianfra. Mi ricordo, può essere. K, di fronte a Carlos Primero. Sì. Noto lupo. Noto guasto. Noto guasto. Asciuga. Ce lo vuoi da asciugare? Ma la manca a Bari Beethoven. Ma lo posso solo immaginare, per carità. Anche lui era sempre bello ginnico in bicicletta. Mi ricordo. UOX uovo doppio. Adesso bicicletta tutto andare. Se lo vede è diventato una palla a forza di bere vino bianco la mattina, cazzo, e birra, e giocare a carte. C'è sugar. Se si può rovinare così uno, non dicono. Ma dimmi una cosa, tu che sei sotto sala, quanti anni c'ha? Ha espresso i 70, no? Guarda, io penso che sia intorno ai 70, non le manca molto. Non le manca molto. E invece l'altro attore, Sarah Chopin, che lo vedevo sempre ad Auschwitz, quello mi sa che c'ha 75 almeno. Ora sta andando per i 78, altro che balle, Gio. E ti dico allora che Gianni dovrebbe averli passati 70, ne ha 71, ne ha 72. Boh, cazzo, come passa il tempo. Marco, tu li conoscevi, sì, questi nomi, ovviamente sì. Sì, e chi è che non conosceva? Carlos Primero, era attore Chopin, e io voglia. Te lo ricordi tu, Anto, sì? Non mi è nuovo il nome, sono passati tanti anni. Guarda, Carlos Primero abitava di fronte, nella Budi, di fronte a quel palazzo che c'è, che abita sempre lì, di fronte a Gianfranco, mentre Torre Chopin abitava in via Grazia Deledda, nelle casette in Canada, quelle basse. Ma l'ha cavato tutto però. Non ha mai avuto nulla in Chivi, dalla mamma, assolutamente, capito? Aggiustava il computer, faceva un po' di tutto e di più, ma io quel baracchino lì non l'ho mai sentito. Ciao, Marco. Ce l'aveva lì il baracchino Gianfra? Boh, non me lo ricordo. Io ci andavo con Tore e non vedevo altro che queste schede, andando e tornando, questi decoder andando e tornando, baracchino non ne ho mai visto. Sì, guarda, forse c'è ancora un'antenna addirittura. Se ti riferisci alla, non dico la fine di via Grazia Deledda, ma un pochettino più giù dalla chiesa, dai, che c'è quel palazzo alto, e lui era al primo piano, c'era la radio vicino al divano, cioè, sto andando un po' a mente, perché ci sono andato un paio di volte, però sì, e ti dirò che arrivava da tutte le parti, era una zona quella micidiale. Sì, hai ragione, perché quell'antenna l'aveva fatta Luca. Sì. È rimasta l'antenna lì. Adesso ne hanno buttato tutto e hanno fatto tutto nuovo, quindi non ci può essere antenna. Però c'era, prima di buttare, quando è andato via lui, che gli hanno dato la casa lì punti, mi pare, lo ha fatto cambio, le ha dato lì punti, ha fatto cambio con uno, mi pare con Fortunato Vacchi, adesso mi ricordo. Comunque ha fatto un cambio perché ai punti non le piaceva, lì era rimasta l'antenna e era stata tolta, sì mi ricordo. Però ti ripeto, quando ci andavo io Voltore, rimanevo sempre fuori in macchina, lui entrava con questi decoder, cambiavano, facevano schede, a destra, a sinistra, quindi manco ci stavo pensando io al suo baracchino, anche perché non è che avevo questo grande legame. Uscivo Voltore, quindi dicevo, passiamo un attimino da Torre Chopin, vabbè passiamo, poi da lì 10 minuti e ci andavamo in campagna a Sant'Orsola da Antonio Caredo, capito? Soprattutto la domenica mattina e sabato mattina, perché io lavoravo, quindi non è che ero a appresso a loro, ma loro si vedevano quasi tutti i giorni, mi dice l'attore, quindi vabbè. Va bene, va bene. Avanti, anche un altro passaggio, poi io vi lascio, vado a cenare, dai. Qualcuno me lo ricordo anni fa, ma adesso mi sono passati tutti da Rugabo, perché io in frequenza non è che ci sono da oggi, ci sono un bel po' di anni, ci sono. Perché entravo anche da ragazzino, entravo. Un pochettino mi sono passati dalla mente. Mi ricordo qualcuno così, mi ricordo a quella di giorno, mi ricordo altri, cioè se devo fare un po' di memoria, che li ho sentiti nel passato, li ho sentiti. Io avevo sentito anche quella signora che parlava, Biancaneve, così si chiamava. Ce n'erano quei tempi, vabbè, Tore era Tore Chopin, l'altro Tore era Tore Laverde, che abita lì dove c'è Gianni Opiuru, abitava perché è morto, capito? Quindi erano i mitici che insomma, quegli anziani, dell'era di Mario Mao, di Gio Maria, di Giulio, so, di quella era lì, ma io non è che mi allontano molto perché sono entrato nel 75, quindi modulavo la Porto Torres. Nell'83 poi sono arrivato a Sassari, ma io a Porto Torres avevo già il baracchino, l'antenna, avevo la Super Range, usavo tutto, arrivavo a Sassari benissimo alla grande. Parlavo con tutti quelli di Sassari, quindi è sempre Claudio Sparvieri. Poi nell'83 sono arrivato a Sassari e ho montato l'antenna qua a casa. Perciò io sono attivo dal 75. Va bene, dai, io vi lascio, vi auguro buona cena, buon tutto, mi vado a mangiare un boccone e poi mi guardo un po' di TV. Buona serata, ciao Antonio, ciao Marco, ciao Gianfranco. Cosa? Al secondo principio della trasmissione. Che palle, sparito. Cosa sta succedendo? Sparito? Non c'è più. Sì, come tocchi qualcosa sparisce. E prima c'era, molto acuto anche, un sibilo proprio, non un fischio, un sibilo acutissimo. E poi è toccato qualcosa e è sparito. Bene, dai, tanto adesso io mi attacco alla TV, come sempre. Ciao Claudio, ciao Antonio, Gianfranco, tutti quanti, dai. Sentiamo quando capiterà, ok? Ciao a tutti, buonanotte, anche agli ascoltoni, ciao. Vediamo se ce l'ho ancora. C'è Marco, parla là. C'è? No, non c'è. Dimmi come la mia tigre, come la mia tigre. Qua, lì? Lì va bene. Ok, qua su. Alla grande. Hola, già va bene adesso già. Non so cosa cacchio gli ha preso, non l'ha mai fatto. Ora, aspetta, processore. Ecco il processore. Vabbè. Non lo so. Non ci sia qualche cavo qua che sta toccando. Vediamo. Ehi, c'è il cavo qui, ha detto mollato, ma va fanculo. Il connettore mollato c'è. I microfoni. Vabbè, ok, dai. Ehi, signori, dai. Vi rinfresco i saluti e sentiamo quando capita, dai, io non tutti i giorni, non è in tutti i giorni. No. Ok, ciao a tutti, dai, buonanotte. Già ne è poca di fretta, cosa ti sta scappando, qualche programma? No, in realtà non c'è nulla di bello oggi, dovrò disatterrare qualche DVD, qualche videocassetta ancora, quelle che funzionano ancora. Come Marco non c'è niente di bello? Guarda, c'è Temptation a Canale 5, è una cosa bellissima da vedere, ti fai una cultura con Maria De Filippi, per carità di roba. Ma Temptation? Temptation, ma non sarà Temptation Island, no, per carità di Dio. No, no, io tutto il trash, tutti quei programmi Grande Fratello, di Bavosi, tutta quella roba trash, di bisticci, di gente a culo nudo, non ne guardo. Finché uno se la guarda su YouPorn, vabbè, però se voglio roba trash, ma in una TV, non dico statale, ma pubblica, era meglio Pippo Baudo, ribadisco. Per quanto palloso fosse, era tutto molto più corretto ai tempi di Pippo Baudo, cappa. Di bucacciunate, viso. Si conferma, guarda. E si conferma proprio. Molte, molte stronzate. Per carità, guarda. Vabbè. Adesso va bene comunque, no? Chi era il connettore del microfono mollato, Marco? Ah, la ghiera leggermente svitata e può capitare anche qua ogni tanto. Ho notato una cosa, siccome io non la stringo troppo, no? Cioè, con due dita appena sento che arriva a fondo corsa molla. Certe volte è come se si mollasse di suo, forse col calore, il metallo che si... Ma calore, oddio, una cosa misera è come calore. Vabbè, comunque non ti preoccupare, è risolto, adesso esci bene, con e senza processore. Che poi detto tra noi, già lo sai, no, che per un salotto notturno anche senza processore ce n'è d'avanzo. Sì, glielo credo, ce n'è d'avanzo. No, ma adesso cambio, metto l'altro M60 e questo lo metto sul quello digitale, va? Perché era il suo, non vorrei che questo sia più forte, perché questo è l'MC60, quello vecchio della Trio, spinge un bel. Rispetto all'altro spinge molto di più, e quindi può darsi che con questa radio magari fa dei problemi, ma penso di no comunque. Se tu togli il processore, che in AM non dovrebbe mai essere messo, vedrai che esci benissimo. Tu sei sempre abbassa, non ci riesco io, no, mi avevo dovuto chiamare, è 40 anni che uso sta radio, io sono di quei pochi che non tocca mai niente, io questa radio l'ho sempre usata così, micchichina uno, processore inserito, non mi hanno mai detto niente, poi c'è chi piace troppo forte, c'è chi piace un po' più debole. Capito Gianfranco? Io sempre così la uso, che si stacco il processore, poi quando vado in banda laterale mi dimentico, esco basso, qui e là, e invece lascio stare attaccato, già va bene. Però già lo sai, ti porti appresso tutto, mentre senza processore c'è solo la tua voce, capito? Poi se devi aumentare aumenti il mic gain, se fai prima. E non pensare che staccando il processore cambi qualcosa questa radio, è talmente spinta, usa pensi che cambi tutto. Così senza processore cosa cambia? Non senti la televisione, ma la modulazione è sempre quella. Adesso è ottima la modulazione, non c'ha sottofondi, capito? E su quegli apparecchi non è fatto per l'AM, è fatto solo per spingere in banda laterale. Poi anche agli altri, guarda, se è meglio adesso senza suoni, senza TV. Beh, è normale che vada meglio, è meno spinta, però ti ripeto, a me non piace. Molto più riposante. È molto più riposante, sì, lo so, però lo sai che a me non mi piace. Se no, che tigre sono? No, sei Claudio Sparviero. Io mi metto Claudio Guglione. Dai, divertitevela, processore o non processore, poco ci sto entrando, mi sto dedicando un po' più alle V e alle U, dai, questo periodo mi piace più lì. Ci sentiamo, ciao ragazzi, buonanotte a tutti, divertitevela alle prossime, ciao. Buonanotte a tutti anche da parte mia, dai, che io chiudo. Ce la risentiamo alle prossime, dai, mi ha fatto piacere questa chiacchierata. Ok, ciao Fra, ciao anche Antonio, se non sbaglio. Vediamo un po' se Marco, non mi dire che sei già a nanna, anche Marco. Va bene, ciao a tutti. Sei anche qua?